Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, Portogallo in vantaggio sulla Corea del Nord 1-0 al 38esimo del primo tempo, è l'ultima delle partite in calendario alle 13.30 perché da domani scatta la terza e ultima giornata dei rispettivi gironi e ciascuno giocherà in contemporanea la propria partita insieme per l'appunto alle altre due squadre del raggruppamento. Ma l'appuntamento di oggi comincia ovviamente con l'indomani di Italia-Nuova Zelanda, e cioè con uno dei risultati più tristi e più avvilenti, direi, della storia del calcio italiano ai mondiali. Parlo di risultato, la prestazione, un suo decoro forse nella mediocrità generale l'ha anche avuto, ma certamente non il risultato contro i neozelandesi. Quindi il giorno dopo ce lo riassume, ce lo racconta il nostro inviato Dario Ricci. Buongiorno Dario. Buongiorno Gigi, buongiorno dal ritiro di Centurion. Beh, partirei subito con la cronaca di quella che è stata la mattinata, una mattinata intensa, quella del dopo Nesprit. C'è stato l'allenamento mattutino e che si serve con un confronto tra Lippi e giocatori, un confronto che è durato circa 20 minuti, si sono tutti seduti dietro i cartelloni pubblicitari, si vedevano di fatto solo le teste in lontananza, nella parte più lontana del campo, un processo confronto, diciamo, ma a viso aperto tra la squadra e il CT. Poi il lavoro sul campo con Buffon, De Rossi, Montolivo, Zambrotta, quelli che hanno giocato di più, insomma, che sono dedicati a un lavoro atletico in palestra, e il resto del gruppo, compreso Pirlo, che pure è sulla via del pieno recupero, che ha poi lavorato sul campo, un lavoro soprattutto tecnico, 3 contro 3, 5 contro 5, partitella, insomma, sembra quasi che Lippi, che ha ben saldo il timone del gruppo, voglia un po' lavorare anche sulla mira, perché e sulla fase di finalizzazione, che è il principale limite di questa squadra finora. E poi c'è stata chiaramente la conferenza stampa. Sì, mi pare che, insomma, certamente da come ci hai raccontato i cartelloni pubblicitari eccetera, mi pare che Lippi abbia voluto tenere un po' al riparo dai cronisti il confronto con la squadra, come è ovvio, anche perché, non essendo mancate ieri le voci dissonanti anche da parte di giovani come Marchisio, come Pepe e come altri che con molto rispetto, ma insomma anche con una discreta chiarezza, considerato il momento, hanno fatto notare come non sia semplicissimo continuare a cambiare, continuare ad avere indicazioni diverse, oppure sentirsi pubblicamente bocciati come toccato a Pepe, e quindi immagino che questo confronto, insomma, proprio all'acqua di rose possa non essere stato. Eh sì, anche perché la modalità ci ha colpito, ma ha colpito, devo dire, perché è chiaro, ti nascondi dietro i cartelloni pubblicitari per creare una sorta di intimità, ma lo fai in campo in modo che tutti vedano, quindi c'è questa duplice chiave di lettura. Esatto, no? Quindi, esatto. Quindi tutti l'abbiamo visto, l'abbiamo ripreso, l'abbiamo fotografato, lo stiamo raccontando. Lippi era seduto in mezzo al gruppo, si vedeva la sua testa e i capelli grigi chiaramente al centro del gruppo. È chiaro che, e non a caso poi in conferenza stampa ha detto, quello che conta è quello che ci diciamo tra di noi, ma è quello che ci diciamo tra di noi in campo, quando tutti gli altri sono lontani, perché lo spogliatoio, per quanto è unito, spesso ha i muri che hanno le orecchie. Quindi il discorso che conta è quello che è stato fatto questa mattina in quel conciliabolo, e credo che sia stato quasi un discorso di rifondazione, visto poi Lippi che si è incontrato in conferenza stampa. Certo, poi tra poco ascolteremo la parte di conferenza stampa di Lippi di poco fa che ci hai inviato nel frattempo. Credo ci sia anche una sindrome ormai da gola profonda in tutte le nazionali in Sudafrica, perché è giusto fidarsi del proprio ambiente, ma insomma dopo l'esempio di quanto è accaduto alla Francia, credo che qualche cautela in più sia anche giusto adottarla. I medici o comunque i preparatori, lo staff, che cosa lasciano intendere innanzitutto su Pirlo e sulla possibilità sua di recuperarlo di essere in campo con la Slovacchia, ma in genere anche sulla condizione degli altri, che mi sembra l'unico aspetto su cui stare abbastanza tranquilli finora. Ah, direi di sì proprio perché si è vista una squadra comunque tonica, ad esempio facciamo un nome, Zambrotta, no? Che era uno dei giocatori, certo, punti interrogativi più grandi alla luce della stagione che aveva fatto, beh, sicuramente dal punto di vista fisico è uno dei più brillanti, quasi si è rivisto il giocatore di 4 anni fa in alcune discese, in alcuni spunti sulla destra. Il caso Pirlo, beh, oggi Lippi in realtà il giocatore sembra pronto, ieri passando nella zona mista gliel'abbiamo chiesto, dice ma allora con la Slovacchia ci sarà? E dice beh non lo so, non dipende da me, insomma quelle risposte che ti danno l'idea insomma di come se ti dicesse sono pronto, se il mister mi fa giocare ci sono, sì. In realtà oggi Lippi ha fatto una frenata molto forte in questo senso perché ha detto quello che avete visto oggi di Pirlo è stato il primo contatto col pallone dopo 15 giorni di terapia e lavoro a parte, quindi ha detto sono tutte aspetti da valutare. La condizione fisica generale sembra effettivamente buona, i problemi sono altri, tant'è che poi lì ti ha detto, dice non, il nostro mondiale deve ancora iniziare, non è detto che sia un male poi eventualmente trovare una grande a questo punto l'Olanda, perché comunque come ci stiamo dicendo in queste ore una della fa la partita, non si va a chiudere come i neozelandesi o come anche i paraguayani. È chiaro che però non gli sei anche chiesto, dice beh ma nel ruolo di campione del mondo dovevamo aspettarci di trovare questi bunker da far saltare e allora era meglio avere anche un piano B. È sempre meglio avere un piano B e magari non un piano C, un piano D, un piano E, un piano F come abbiamo visto finora in queste partite in cui cambi ne abbiamo visti tanti per non dire persino troppi. È ovvio che in questi giorni continueremo a seguire la marcia di avvicinamento alla partita a questo punto decisiva con la Slovacchia. Prima di ascoltare le voci che arrivano da Sudafrica, a cominciare da quella di Lippi che ha, si diceva prima, appena parlato, appena effettuato la conferenza stampa dell'indomani, un ricordo di Roberto Rosato, un campione con la C maiuscola e un signore con la S maiuscola. Me l'ero preparato, l'ho buttato nel cestino per la buona ragione che una mezz'oretta fa è arrivata una mail di un ascoltatore che si chiama Oliviero Tacchella, che scrive da Pavia e che è un diciamo pure un habitué di questo appuntamento, che ha scritto queste splendide righe. Aveva il viso da brava persona, la potenza di un toro, la correttezza di chi sa stare al suo posto rispettando le consegne. Da me non si passa e se qualcuno ci riesce è perché è un fuoriclasse. Della sua persona e del resto della sua vita nessuno ha mai saputo nulla. Era forse un po' più conosciuto di altri perché gemello di Rivera, 18 agosto 43 entrambi. Si sapeva della sua lunga malattia e se ne parlava con la voce sommessa di chi non vuol recare disturbo. Così sono i campioni, quelli con la C maiuscola. Adesso lui spera che domani non vi siano battimani in chiesa. Grazie a Oliviero Tacchella per questo delizioso ricordo di un grande giocatore come era stato e di una grande persona come è stata Roberto Rosato. Ci rispostiamo in Sudafrica e sentiamo il primo frammento, la prima parte delle dichiarazioni di Lippi. Prendere subito gol e poi come è successo ieri non è il massimo, chiaramente, no? Tutti grandi propositi, buoni propositi, però bisogna altrettanto dire anche che abbiamo pareggiato abbastanza velocemente. Non è che non è facile pareggiare. Altro aspetto positivo da giudicare della squadra è che per due volte va sotto più o meno meritatamente con avversari e poi riesce a tirar fuori comunque. Non è facile. Abbiamo visto delle squadre qua che sono andate sotto. E poi dopo per un'ora e mezzo non sono state capaci di riuscire a buttarla dentro, nonostante abbiano attaccato altre squadre importanti. Sono queste, questo è uno degli aspetti, dei pochissimi, sia chiaro, aspetti positivi che ha questa squadra, e perciò non vi dovete meravigliare se poi da un momento all'altro questa squadra comincia a fare certi risultati, non vi dovete meravigliare e neanche dispiacere. Ma dispiacere non credo proprio, meravigliare magari un pochino sì, ma insomma questo c'è tempo poi per meravigliarsi. La prima parte dell'appuntamento di oggi la dedichiamo all'Italia, poi dopo l'intervallo per i mercati ci sarà tempo e spazio per altre vicende, in chiaroscuro, lo scuro della Francia per esempio, il chiaro del Brasile, ma insomma altre cose ancora. Giampaolo ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Certo, forte e chiaro, dica. Perfetto. Allora, due cose. Io ieri sera l'unica critica che mi è sembrata veramente ad hoc è stata quella di Barino Bartoletti, che ha detto che in tutta la squadra giocano 5 giocatori della Juventus titolari ieri sera, che giustamente la Juventus quest'anno è stato, non ha giocato benissimo, e tra l'altro spesso molti fuori ruolo, tipo Marchisio, tipo Camoranesi, la prima partita ha fatto entrare trequartista. Allora io mi chiedo, più che Cassano, Balotelli, allora non era meglio portarsi Kossu, che perlomeno è un trequartista e ha giocato benissimo tutto l'anno trequartista. Dico Kossu per dirne uno, ma il succo era quello, cioè la Juve tutto l'anno ha giocato con gli stessi problemi della nazionale, cioè poca brillantezza, errori in difesa, e adesso ci ritroviamo in nazionale 5 giocatori della Juventus titolari, escluso Buffon. Sì, alcuni di questi non mi sembra rappresentino un problema, a cominciare per esempio da Chiellini, altri sì, però non, però ce ne sono altri di altre squadre che invece non mi pare non stiano funzionando, cioè mi pare che il Girardino di questa partita e mezza che ha giocato, Di Natale che è subentrato, Pazzini che è subentrato sia pure in condizioni difficili, Iaquinta mi sembra che il suo più o meno lo stia, più o meno, forse meno che più, ma insomma decorosamente lo stia facendo. È una squadra grigia, è una squadra anonima che non ha lampi, se non qualche rara accensione in Montolivo. C'è il vecchio Zambrotta che si sta battendo con un coraggio da leone e nelle fasi migliori, per esempio nel primo tempo di ieri, ha pochissimo da invidiare allo Zambrotta di 4 anni fa, e quindi lui è un vecchio che è riuscito a farsi trovare pronto. C'è qualche giovane che riesce a farsi trovare pronto, come il Criscito della prima partita per esempio, e ieri solo in parte, Montolivo di cui si è detto prima, ma insomma l'insieme non decolla, mancano attaccanti degni di questo nome in ambito a livello internazionale, e poi manca la fantasia, la qualità, che è sempre stata una delle caratteristiche del calcio italiano, ma mancava anche nel 2006 quella, perché se vogliamo fare un piccolo sforzo di memoria, non possiamo aver dimenticato che quello è stato l'unico mondiale vinto con 2 gol di Toni e 1 ciascuno di tutti gli altri attaccanti, quando della storia dei mondiali italiani vinti dagli italiani e non, era sempre stato un attaccante, un uomo di fantasia, un grande talento comunque a orientare il mondiale. Torniamo nel ritiro azzurro e sentiamo che cosa dice Lippi a proposito del terrore, perché questa è una cosa che è indotta da quello che è successo in Inghilterra, sta succedendo agli inglesi. Qualcuno di loro, degli inglesi per l'appunto, ha detto sì, effettivamente abbiamo un po' di terrore di giocare, non per caso ci avete visto con gli occhi sbarrati in campo. Sentiamo Lippi. Ecco, non vorrei che... Io stamattina ho letto una cosa di Capello che diceva i miei giocatori sono terrorizzati dal terrore del mondiale. Ho letto questo. Non vorrei che succedesse questo anche a noi. Che abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo meno di quelle che sono le nostre possibilità, ma che il nostro mondiale debba ancora cominciare in pratica. Questa deve essere la consapevolezza. E non è detto che arrivare... Non è che tutte le volte puoi avere un percorso, una corsia preferenziale per arrivare in fondo. Non è detto che se ti capitano delle squadre, a parte che può ancora succedere di tutto, può succedere che vinci il girone, può succedere che arrivi secondo, può succedere tutto, ma non è detto che per caso succedesse che dobbiamo affrontare delle squadre importanti sia la cosa peggiore che ci possa capitare. Non è detto nulla di tutto questo. È vero, però questo è vero, perché l'Italia spesso in passato il meglio di sé lo ha dato contro squadre che l'iniziativa l'assumano anziché aspettare che sia sempre tu a muoverti, e quindi non è poi detto che una grande squadra non sia più congeniale al nostro tipo di controgioco, anzi è possibilissimo, però insomma non possiamo nemmeno dimenticare che furono l'Australia e l'Ucraina 4 anni fa a spalancare l'autostrada in direzione semifinali e poi addirittura titolo mondiale. Quest'anno sembrava orientata nella stessa maniera, ma il Paraguay gioca, l'Italia no, e quindi insomma, salvo sorpresa l'ultima giornata, a questo punto dovrebbe essere del Paraguay il primo posto del girone e la conseguente possibile autostrada. Livio ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, è molto vero quello che state dicendo, però è altrettanto vero che penso che con la nazionale che abbiamo visto sia nelle due partite di del mondiale che nelle tre partite premondiali abbiamo visto che non ci siamo, ma al di là di questo, che speriamo, che non voglio dire niente, che veramente il campionato per l'Italia debba ancora cominciare e incominci da giovedì, ma che mi lascia molto sconcertato. Sono state le dichiarazioni prima di Lippi, un grande, chiamiamolo un grande tecnico a livello mondiale pure, perché ce l'ha l'esperienza e la capacità, però mi ha sconcertato questa nell'intervista quando dice adduce la sfortuna quale elemento causante di questa per il momento disfatta. E non solo Lippi, ma anche il presidente Abete nell'intervista a Radio 24, quando dice consoliamoci, guardiamo le altre grandi cosa stanno facendo. Non mi sembra che siano scuse di persone che hanno la responsabilità, la grande responsabilità di condurre una grande nazionale. Livio, però sa, quando parti da, oltretutto, da detentore di un titolo, pareggi la prima partita con il Paraguay e passi perché insomma, comunque il Paraguay l'abbiamo vista ieri con la Slovacchia, è una signora squadra. Poi però è la Nuova Zelanda, che è uno degli appuntamenti più facili, ripeto, nella storia delle gironi di qualificazione italiana ai mondiali, e non vinci, metti pure che ti giri un pochino storta il palo di Montolivo, che insomma, metti che non ti giri benissimo, ma insomma, per la Nuova Zelanda dopo è ovvio che qualsiasi cosa possa essere accampata ad attenuante viene indubbiamente praticata, no? Mi pare sia abbastanza inevitabile. I bookmaker hanno provveduto comunque nel frattempo a aggiornare le loro quote, perché l'Italia che vince il mondiale era da 16, era scesa a 12, non ho capito bene perché, ma in ogni caso è risalita dopo ieri a 18. Attualmente c'è l'Argentina a 4,50, il Brasile a 6,50 con la Spagna, e poi Inghilterra e Olanda, che non si è ancora crollata la quota dell'Inghilterra, mi sorprende molto, crollata nel senso di molto, molto salita intendo. Per i cannonieri invece Fabiano rimane Higuain il favorito assoluto a 3,50, però Luis Fabiano, che era a 25 dopo i due gol di ieri sera, è sceso a 4 e quindi è considerato il secondo favorito, mentre il terzo è Diego Forlán, seguito dai due spagnoli Villa e Torres. Messi sarebbe pagato a 18. Bisogna andare oltre i 50 per trovare un giocatore italiano quotato in questa classifica, e direi che ci sarà anche il suo perché. Hassan ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi, grazie di avermi richiamato. Io, a nome di tutti gli immigrati, ci siamo sempre in Italia, no? Uh-huh. Quando c'è questi competizioni qua a livello mondiale e anche europeo. Però mi sembra questa volta qua Lippi ha sbagliato tutto, non è perché mancava qualche fantasista, ma anche quelle che ha non riesce a gestirle praticamente. Ieri mi sembrava Pepe è un giocatore che doveva rimanere in campo, e qualcuno dice che gli juventini non hanno giocato, ma non devono essere chiamate, e penso che non stanno facendo la differenza di quelli che non ci sono oggi, penso ai vari Niccoli, Cassano, Balotelli oppure anche Corso. Mi sembra che è una cosa, sta perdendo tutto lì, quello è il mio punto di vista. Massa, sai, sono sempre i migliori quelli, no? che non ci sono, e sono sempre i peggiori quelli che ci sono e si trovano in una situazione di difficoltà. Insomma, anche la considerazione di cui si parlava prima, che hanno fatto Abete e Lippi, cioè che in questo momento, per quanto riguarda il calcio europeo, un po' di malcomune e mezzo gaudio, e insomma, oggettivamente è vero anche questo, cioè vale tutto a questo punto. Io credo che la Nuova Zelanda fosse un avversario contro cui non puoi non vincere. Credo anche, sempre mettendolo un po' sul razionale, che la partita con la Slovacchia sarà più facile per l'Italia, perché a differenza di Paraguay e Nuova Zelanda, a cui un pareggio andava benissimo, la Slovacchia con un pareggio eliminato, quindi qualcosa in più dovrà provare, e questo dovrebbe rendere leggermente meno difficile il compito dell'Italia. Però è anche vero che l'Italia adesso è una squadra in crisi, ed è una squadra in crisi anche mentale, e quindi non è detto che questo poi succeda, cioè il fatto che non è detto che una partita più facile poi si traduca in un risultato certamente migliore o certamente positivo. Prima di ascoltare le voci che arrivano da Sudafrica, a cominciare da quella di Lippi, che ha, si diceva prima, appena parlato, appena effettuato la conferenza stampa dell'indomani,

Perché di questa precisazione? Perché nel comunicato letto da Domenech si faceva riferimento a una richiesta e una domanda da parte del calciatore che non ha trovato risposta. Secondo la federazione invece la risposta c'è stata. Io credo in generale che quando un giornale come l'Equipe, che ha una tradizione, ha una serie di valori e anche una caratura internazionale, non solo nazionale, così alta, fa un titolo come il virgolettato dell'altro giorno, beh, io credo che siamo all'impazzimento totale. Mm. Perché credo che siano impazziti i giocatori, che sia impazzito Domenech, che sia impazzita la federazione. Trovo anche che la stampa francese abbia in alcuni casi gli sia un po' slittata la frizione, perché cioè, sinceramente mi è sembrata un qualcosa che andava oltre. In ogni caso i francesi che sono qua e che noi interpelliamo hanno tutti gli occhi fuori dalle orbite, credono di vivere in un incubo, e penso che insomma martedì sera l'incubo finirà e mercoledì ci sarà un aereo per tutti per tornare a casa. Certo, c'è già stato per Anelka, che è atterrato stamattina a Londra alle 7, leggo su un'agenzia, un fotografo lo ha beccato al suo arrivo. La Francia, leggo sempre, che stamattina è tornata ad allenarsi dopo una riunione dei giocatori, insomma, finita la riunione ha cominciato a correre, mentre Domenech era da un'altra parte a discutere con i suoi collaboratori, quindi probabilmente è stata un'iniziativa, come dire, unilaterale anche questa. Quello che è certo è che il Crédit Agricole, e questa è l'ultima delle agenzie arrivate che riguarda i francesi, il Crédit Agricole, che è uno degli sponsor ufficiali della nazionale francese di calcio, ha annunciato la sospensione della pubblicità televisiva con i giocatori della Francia, e questo mi sembra un primo segnale serio, ed è poi probabilmente l'inizio, no, di quello che può sistemare, perché come è noto alla fine sia federazione che tecnici che giocatori mi pare che sia al quattrino che siano più sensibili, così a occhio, senza voler mancare di rispetto a nessuno. Non è un gran momento, Fabio, per i francesi, perché Francese era l'arbitro di ieri sera di Brasile Costa d'Avorio, per quel che ho potuto vedere io, di gran lunga il peggiore finora di questi mondiali. È un mondiale brutto per i francesi, perché ieri io ero allo stadio per gran parte della gara, quindi, però i falli finali, la parte finale l'ho vista in televisione e l'ho trovato veramente. Però già nel primo tempo Kakà un paio di volte è messo per terra così senza fischiare, sì. E mi è sembrato di manica larghissima anche su contatti molto violenti, al di là poi della sceneggiata fatta dal giocatore della Costa d'Avorio, e lì io credo che qualcuno dall'alto gli abbia detto di non cacciarlo col rosso diretto, perché ci ha messo troppo tempo a tirare fuori il cartellino. Ma in ogni caso, se questa è una cosa che lui poteva anche aver visto male, perché il giocatore a Costa d'Avorio fa una scena pietosa, mi ha ricordato un po' Busquets nel Barcellona, sì, contro l'Inter. Negli ultimi 10 minuti quelli della Costa d'Avorio andavano dentro a tacchetto arroventato ed era diventata quasi una caccia all'uomo, al punto che Dunga sul 3-0 era furibondo, non stava fermo mai in panchina, perché aveva capito che i suoi potevano rispondere e rischiava di perderne qualcuno, insomma, non solo per infortunio ma anche per reazione. Comunque, un arbitro che non vede due falli di mano consecutivi in un'azione da gol, no, due sono tanti, perché oltretutto poi, se anche era distante all'inizio, Luis Fabiano facendo due sombreri consecutivi, è ovvio che rallenta l'azione, quindi c'era il modo di arrivare e vedere meglio e passi, ma che risparmia due espulsioni a due giocatori a Costa d'Avorio che entrano col piede teso sulla tibia avversaria, non solo, ma lui nel primo caso, in quello in cui questo qua per un puro miracolo non rompe una gamba ad Elano, non gli spezza la tibia per un miracolo, c'è qua la prognosi del medico del Brasile che dice no, gli è andata bene, a quanto pare gli esami ci hanno assicurati, certo fa ancora un po' fatica a mettere la gamba per terra, ma continua di recuperarlo, cioè questo non ha nemmeno fischiato fallo per un intervento da espulsione, sempre, tutta la vita, ma a maggior ragione in un mondiale dove viene applicata regolarmente severità. Alla fine riesce anche a cacciare Kakà, che non solo non fa nulla, ma al massimo cerca di difendersi da un altro che cerca grane. Beh, insomma, io voglio sapere cosa c'è di peggio da un punto di vista arbitrale. Fabio, arriviamo a quello che sta succedendo in Inghilterra, perché insomma, l'Italia sappiamo com'è combinata, la Francia non ne parliamo proprio, ma anche gli inglesi mi sembra che stiano vivendo un momentino discreto. Guarda, a me pare veramente ancora il paradosso del superiore, nel senso che io dalla Francia mi aspettavo la rivoluzione nel caso non arrivassero i risultati. Ora tu sai, tutti sanno che quando si vince sono tutti amici, queste cose. C'è un problema di audio. Allora io manderei in onda subito un ascoltatore e poi nel frattempo richiamiamo Fabio Tavelli e gli facciamo concludere il discorso. Massimo in linea da Venezia, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo dare un po' un mio punto di vista rispetto all'Italia, no? Sì, volevo dire che fondamentalmente il calcio è un fatto di motivazioni anche. Vedere in campo una situazione del genere significa che c'è qualcosa che non funziona, ma non a livello di giocatori, inteso se questi sono i giocatori giusti o meno. Questi sono sicuramente i giocatori giusti, come potevano essere altri. Sembra che ci sia una grande insicurezza da parte della direzione tecnica, secondo me. Però senta, Massimo, lei a parte che la interrompo un istante perché il Portogallo ha segnato il 2-0 con Simão e quindi a questo punto mi sembra che Portogallo-Corea sia una partita, se non chiusa, molto più orientata di prima. Se non ha motivazione dei giocatori che sta facendo una fase finale di campionato del mondo, vorrei sapere quando ce l'hai le motivazioni. Si è vista una cosa molto semplice, è stata mandata in campo una squadra, eravamo davanti a Nuova Zelanda, che bisognava vincere, e poi prima dell'inizio del secondo tempo è stato cambiato il fronte d'attacco. Cioè, questo fa capire una grande insicurezza rispetto a come si vuole impostare tatticamente una partita. Questo viene trasmesso anche ai giocatori, perché allora io vado in campo, dopo vengo sostituito, non ho capito perché, questo genera la confusione, no? Ma insomma, Lippi sostiene di averglielo spiegato, l'ha sostenuto anche in pubblico, che Pepe per esempio non aveva ottemperato. Io ne ho vista anche un'altra, secondo me più grave, perché il terzo cambio a mezz'ora alla fine devi essere proprio ben sicuro del tuo stellone per poterlo fare, perché quando mancano ancora 30 minuti un infortunio ci sta sempre, poi rischi di restare pure in 10. Abbiamo ripristinato il collegamento con Fabio Tavelli. Scusaci perché nel frattempo la tua voce si era persa. All'Inghilterra. Esatto. Eravamo all'Inghilterra. La situazione dell'Inghilterra è quasi più paradossale rispetto a quella della Francia, perché più o meno la Francia era già arrivata con i coltelli fuori prima del mondiale, l'Inghilterra no, cioè l'Inghilterra era arrivata con tutti i favori del pronostico, con una qualificazione brillantissima, con delle amichevoli buone, insomma con una unità, con Capello che aveva anche di fatto tolto una clausola che avrebbe potuto liberarlo unilateralmente dal contratto, quindi di fatto gli veniva prolungato sino agli europei fra 2 anni, insomma le condizioni erano ideali, cioè un allenatore con il massimo della fiducia dalla federazione e dei giocatori. Sono bastati 2 pareggi, per carità, l'Inghilterra adesso deve vincere l'ultima gara per qualificarsi, e questa mattina sul sito della BBC una fonte anonima interna alla federazione dice: nel caso in cui Capello, cioè l'Inghilterra, non dovesse passare il turno, ci aspettiamo le dimissioni di Capello, che è una cosa abbastanza normale, perché se l'Inghilterra non va agli ottavi a me sembrerebbe legittimo che l'allenatore si dimettesse, ma che la squadra chieda un'assemblea e la squadra si lamenti, nonostante questo però dica che Capello va benissimo, ma che vogliano di nuovo le WAGS nel ritiro, che siano stufi di giocare a freccette, di giocare a PlayStation, che vogliano più svago, a me sembra veramente un comportamento molto molto infantile. Da asilo infantile, soprattutto perché credo che con Capello se ne potesse parlare, e se magari non con Capello, con Galbiati, con Italo, con il suo assistente, no? Che in genere è quello che, dividendosi loro due i ruoli, fanno coppia ormai da tantissimi anni. Capello fa quello del duro e quell'altro fa quello del morbido, come ovvio. Fabio, nel frattempo Hugo Almeida ha segnato anche il 3-0 del Portogallo sulla Corea, e questa mi sembra una pratica chiusa. Chiudiamo anche questo collegamento perché tantissimi ascoltatori premono per intervenire sull'Italia. C'è un po' di masochismo, come sai, in questi momenti e in queste situazioni. Grazie a Fabio Tavelli. Ciao a tutti. Ciao. E se si pensa alla fatica che aveva fatto il Brasile nel primo tempo contro la Corea del Nord, questo 3-0 nel Portogallo, quando ancora manca più di mezz'ora alla fine, è abbastanza sorprendente, così come è sorprendente che in questi 3 gol non ci sia ancora, perlomeno al momento, la firma di Cristiano Ronaldo. Insomma, due piccole sorprese, se vogliamo. Andrea, chiamato da Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io avevo questa osservazione da fare, nel senso che credo che la nostra nazionale sostanzialmente non è che sia piena di talenti, quindi forse non dovremmo neanche aspettarci più di quello che hanno dimostrato fino ad oggi. E non a caso una squadra italiana ha vinto la Coppa dei Campioni, ma in realtà piena di giocatori di altre nazioni. E anche magari analizzando il percorso delle altre squadre a livello europeo, non è che ci siano state grandissime soddisfazioni. E come dicevo, forse non sono gli anni migliori questi, e il mondiale è capitato quando doveva capitare, ovviamente, ma non con un'Italia che ha potuto portare poi magari ci sono anche degli stranieri che in Italia la beccano poco e che arrivano a un mondiale e invece magari fanno gol, come ha appena fatto Thiago, l'ex juventino, che ha appena segnato in questo momento il 4-0 del Portogallo. Aveva già anche messo l'assist del gol dell'1-0, quello che ha sbloccato la partita. Certo che l'Italia in questo momento sia ricca di talenti, no. Che almeno uno, secondo me, andasse portato in Sudafrica e non solo una squadra di impiegati, sì, ecco, secondo me sì, uno a scelta, poi lo scegliesse lui, mica dobbiamo fare noi le squadre o le formazioni a Lippi, ci mancherebbe altro, ma uno, ecco, uno che avesse avuto, che poi fosse il vecchio Totti o fosse il giovanissimo Balotelli o fosse il mezza età Cassano, che insomma uno di questi credo che ci potesse stare, anche se questi discorsi poi, come ha detto ieri Lippi con la sua solita grinta spianata, anche se poi questi discorsi si fanno alla fine perché i morti si portano via freddi, questo era il concetto lippiano di ieri, che comunque un suo senso ce l'ha. Ha molto più senso per il mio ripassare la storia dei mondiali, come facciamo ogni giorno, grazie a Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 giugno 1978, ultima giornata della seconda fase del mondiale argentino. Per raggiungere la finale, i padroni di casa sono chiamati a un'impresa non semplice: battere il Perù già eliminato con almeno 3 gol di scarto, ma segnandone da 5 in su. Il primo tempo per l'albiceleste non è agevole. Gli avversari partono bene, centrando anche un palo, ma al 21esimo l'Argentina segna con Kempes e col passare dei minuti il Perù si sfalda. La rossa passò a Luque, che marcò il 6-0 e l'abbraccio con Kempes. Jugare in casa había sido determinante para que Argentina alcanzase la final. Brasil se enfrentó a Italia por el tercer puesto. Finirà 6-0 e la stampa peruviana l'indomani si scatenerà contro i propri giocatori, accusandoli di combine e focalizzando i sospetti su uno in particolare, il portiere Ramon Quiroga, di origine argentina. In seguito è stato anche ipotizzato che il regime militare di Videla abbia addomesticato la gara facendo pervenire degli aiuti al governo di Lima proprio nelle ore della partita, o che dietro la marmellata, come la definirono i giornalisti peruviani, ci fosse lo zampino del narcotraffico. Fatto sta che Argentina-Perù resta ad oggi una delle pagine più inquietanti nella storia dei mondiali. Ah, questo è certamente poco ma sicuro. Sempre il 21 giugno, che sarebbe poi anche il solstizio d'estate, compleanno di Platini, insomma una serie di altre, anche San Luigi volendo, sempre in questo giorno, nel 78 l'Olanda batté l'Italia 2-1 nella partita che allora c'era dei gironi strani, insomma non era il quarto di finale ma equivaleva al girone di semifinale che avrebbe poi concesso la semifinale alla finale. Molto più da ricordare il 21 giugno del 70, perché fu il giorno della finale, fu il giorno del 4-1 di Brasile-Italia, con quel secondo tempo travolgente e quei 6 minuti che un giorno là, tanto non ce li spiegherà più nessuno perché Valcareggi ormai non c'è più, ma insomma che restano uno dei misteri e neanche tanto gloriosi della storia del calcio di tutti i tempi e non solo italiano. Giorgio ha chiamato da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Ma riflettevo più che altro su una cosa: perché gli allenatori italiani amano distruggere tatticamente i loro calciatori innanzitutto e poi impostare delle partite regalando il primo tempo al Paraguay con una squadra improponibile e tutta la partita di ieri in pratica, perché Di Natale è schierato a centrocampo quando poi nell'Udinese in pratica agisce da prima punta. No, relegando... no. Ieri Di Natale ha giocato esattamente come gioca nell'Udinese, il problema è che non l'ha beccata mai. Ma io riflettevo su una cosa: a questo punto Lippi, diciamo, non è che ha tanto da perdere, perché non provare invece con un classico 4-3-3 con Pepe, Di Natale e Pazzini davanti, e con un centrocampo a questo punto veramente offensivo con De Rossi, Pirlo, Montolivo, e poi direi un'altra. Bisogna farlo guarire Pirlo nel frattempo, eh? Ma diciamo, se non fosse guarito Pirlo, io porterei avanti Zambrotta a questo punto sulla linea di centrocampo, perché lo vedo in palla, in forma. Porterei Maggio dietro per una maggiore spinta, e a questo punto perché il buon Cannavaro, che è stato veramente un fuoriclasse unico nel suo ruolo, ma portiamo un attimino al centro dell'area uno che abbia un po' di centimetri, perché purtroppo il buco in questo momento ce l'abbiamo, anche se Lippi dice che su alcune palle, alle prime palle, il problema di Cannavaro. Giorgio, abbiamo sentito, insomma, secondo lei c'è una rivoluzione da fare per Italia-Slovacchia. Sentiamo ancora un altro amico che ha chiamato da Bergamo, Alfredo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Bueno, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Sarò velocissimo, tre spunti. Il primo, io da ex allenatore e giocatore ritengo che l'Italia sia proprio scarsa tecnicamente, e il manifesto è quel tiro di Chiellini tentato di sinistro che andava tentato di destro in area, lì se c'era Tassotti, se c'era Maldini, se c'era Cucureddu avrebbero tirato di destro sicuramente. Secondo, per il tipo di gioco che ha l'Italia, secondo me Ambrosini avrebbe potuto venire molto molto molto buono. Queste pizzicate, non c'è nessun centrocampista che entra in area sui lanci del centravanti. E terzo, mi sorprende della sorpresa dell'Inghilterra, perché c'è chiaramente proprio per i portieri veramente sono veramente scarsi. Beh, insomma, per come ha giocato Lampard, Rooney e Gerrard, credo che sia molto più sorprendente il loro non calcio che non il rendimento dei portieri. C'è un centrocampista italiano che entra, mi sembra sia De Rossi, ieri ha lucrato un rigore, che poi ci fosse un altro discorso, ma l'ha lucrato e aveva pareggiato la partita prima. Poi il discorso Ambrosini posso anche condividerlo, mi pare che negli ultimi tempi fosse paurosamente calato di forma, però si può discutere anche quello. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Flavio Suarni in redazione, ci risentiamo domani. A tempo di sport.